Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, buonasera a tutti. Oggi è il 7 di giugno e noi siamo con l'ombrello in pugno. Buonasera a tutti da parte di Flavio Bilato e Maurizio Gazzavara, buonasera a tutti. Sì, è vero, abbiamo l'ombrello in pugno. Un po' di acqua l'abbiamo fa bene. L'abbiamo chiuso per entrare un po' di acqua nei nostri studi, però ogni tanto un po' d'acqua fa bene. Esattamente. Insomma. Tanto per cambiare. Vuoi sempre il sole, Giulio? No, assolutamente. Assolutamente no. Ma il sole noi lo costruiamo sempre, ogni sera quando c'è l'appuntamento live. Noi siamo qua col sole in mano. E anche stasera, Maurizio, non siamo soli. No, assolutamente no. Ecco. Ma abbiamo un ospite che ci viene a trovare direttamente da Brescia. Imparerete a conoscerlo durante questa trasmissione. È un one man vocal band, come si potrebbe definire, e lui è Boris Savoldelli. Buonasera Boris. Buonasera a tutti, buonasera, grazie per l'invito. Spero di portare un po' di sole, perché la situazione direi che è drammatica. Assolutamente sì, soprattutto con il tuo nuovo lavoro, Bio Cosmopolitan, veramente ci regali un po' di sole. Ma vogliamo spiegare sin dall'inizio, one man vocal band, vuol dire che sei da solo a fare le veci di una band e con la voce. Ma sì, visto dove mi trovo potrei fare la battuta col famoso detto, no? Faso sì. Tutto me, questa è una cosa... sì. Che ho detto che hai preso dai veneti. Ci ho preso bene, infatti sì. È arrivato anche nel bresciano sostanzialmente questo sì. Detto. Ma sì, diciamo che la particolarità della mia proposta musicale sta proprio qua, sta proprio nel fatto che io sia dal vivo che in studio, ci tengo a rimarcarlo, dal vivo come potrete sentire anche questa sera nel corso della trasmissione, faccio praticamente tutto da solo, nel senso che mi sono inventato un po', mi vanto insomma di essermi inventato un po' questa tecnica musicale che mi permette, grazie ad alcune macchine, alcuni strumenti che poi magari nel corso della puntata andremo a spiegare, mi permette di poter riprodurre tutti i miei brani rigorosamente dal vivo, come semplicemente facendo delle micro registrazioni con un loop che altro non è che una sorta di delay, di eco in buona sostanza, che sovrapponendo, poi lo faremo capire meglio agli ascoltatori, che sovrapponendo ogni singola traccia, ogni singola parte, ogni singola cellula ritmica ed armonica mi fa costruire i miei brani. Chiaro, no? Sì, certo. Una volta veniva usato l'8, 9, 10 piste. Esattamente. Quante erano, esatto, le piste. Adesso viene utilizzato un semplice looper che non è parente con Cindy, non c'entra niente. No, parla di no. Ed è un attrezzo molto elettronico che comunque ti permette di sdoppiare, triplicare, quadriplicare le voci. Esatto. Ma peraltro questo attrezzo è una cosa divertente, perché molti pensano che sia un attrezzo, un nuovo strumento delle nuove generazioni informatiche. In realtà è un multi-effetto degli anni 70, quindi è qualcosa di veramente vintage, di veramente vecchio, perché in realtà è veramente un eco. Cioè, se voi immaginate un eco, che è quello che noi insomma chiamiamo tecnicamente delay, ma che eco è quello che se noi andiamo in cima a una montagna e urliamo il nome della nostra compagna viene rifranto e rimandato dall'altra parte della montagna, esattamente la stessa cosa, solo che un eco normalmente ha quello che viene tecnicamente chiamato il decay, cioè la caduta, cioè a un certo punto dopo due o tre ripetizioni smette di fare ripetizioni, il loop invece continua a fare la ripetizione. C'era un gruppo che usava, è un gruppo americano, i Divo, te lo ricordi? Certo che sì, certo. I Divo avevano quelle sperimentazioni. Assolutamente. Beh, i Divo sono stati assolutamente geniali da questo punto di vista. Furono, come dire, questa band post-punk, esattamente, bene definita, che in realtà aveva in sé molte innovazioni, molte idee assolutamente geniali, soprattutto in quegli anni in cui fare queste cose era molto difficile. Era molto difficile, non c'erano le tecnologie. Cappello compreso, se ben ricordo, i Divo, quando assolutamente. Il loro cappellino un po' da astronauta, un po' da marziano. Sì, che era una sorta di vaso messo al contrario sulla testa, ma era carino. Adesso c'è un chitarrista che non mi ricordo come si chiama, dell'avanguardia. Sì, che usa la scatoletta del Friday Kitchen del KFC americano messo in testa, non mi ricordo come si chiama. Ma io, a proposito di chitarristi dell'avanguardia, tu lo sai benissimo, e Flavio lo sa, il Flip Tony, te lo ricordi? Flip Tony. E lui era Flip che ha inventato anche lui uno strumento, un modo di far musica. È vero. Assolutamente. È vero. Ma devo confessarvi, ma questo lo confesso, ormai l'ho confessato qualche volta, quindi non è uno scoop, però ve lo confesso anche a voi, sì, che la prima idea che io ho avuto per poter iniziare poi questa tecnica vocale è nata proprio dalla visione mia durante un concerto di un chitarrista che usava la Loop Station. Il chitarrista era Steve Morse, quando suonava con i Deep Purple, che usava la Loop Station per fare il suo solo. E io mi sono detto, ma perché non posso farlo anch'io con la voce? Esatto, hai ragione. Assolutamente, adesso avremo modo anche di sentirlo, perché direi subito di partire con l'ascolto di un pezzo di questo disco di Boris Savoldelli, questo nuovo lavoro si intitola Bio Cosmopolitan, e diamo subito inizio con la traccia numero 1 che si intitola Aria, e poi torniamo a commentarla insieme. Sentite qua la musica di Boris. Blu Radio Sera. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. E abbiamo capito qual è la musica, ma più che musica, musicalità di Boris Savoldelli, un brano di sola voce, proprio con l'ausilio di questo looper di cui abbiamo parlato prima, per questo pezzo che si intitola Aria. Adesso lo spieghiamo, te l'hai spiegato in privato, c'ho il microfono spento, adesso lo spieghiamo in diretta a tutti i nostri ascoltatori, Boris, come è nato Aria. La storia è molto bella. Originariamente Aria non doveva fare parte della tracklist, non doveva essere inserita nel disco, perché non l'avevo ancora scritta quando il disco era praticamente pronto, cioè un anno fa. Però la scorsa estate Paolo Fresu, che è uno special guest, un ospite che ho avuto il piacere di ospitare in questo disco, mi ha invitato a un festival storico che lui ogni anno produce come direttore artistico, e cioè Time in Jazz o Berchida Jazz, che viene fatto in Sardegna e che viene fatto proprio a Berchida, che è il paese di nascita, il piccolo paese dove è nato Paolo Fresu. E ogni anno la caratteristica di questo festival è che ha un tema specifico. Lo scorso anno il tema era proprio l'aria, e Paolo mi ha onorato, oltre che chiedermi di fare due concerti per il festival, il concerto di apertura e il concerto di chiusura, mi ha anche onorato chiedendomi una sigla, perché ogni anno commissiona la sigla del festival a un musicista che partecipa al festival. Quindi io ho scritto questa sigla, che sostanzialmente era diventata un po' il leitmotiv del festival, e tutte le sere prima del concerto più grosso, più importante, di quello che viene chiamato il main concert, veniva messa e irradiata come sigla d'entrata. E la cosa è piaciuta molto alla gente, è piaciuta molto, tanto che alla fine anch'io ero soddisfatto soddisfatto del prodotto che avevo fatto, di questo brano che anche se molto breve era molto intenso, e quindi ho deciso di usarlo proprio come apertura anche per il mio disco, e devo dire che la cosa ha funzionato, decisamente. È arrivato per ultimo ed è stato sistemato per primo. Per primo, sì. Ma poi vi dico anche questo, è una cosa che mi ha inorgoglito tantissimo. Durante le serate, il concerto probabilmente più importante dell'intero festival era quello di Ornette Coleman, lo storico sassofonista del Free, che è uno dei miei idoli assoluti. E alla fine del concerto Paolo, di solito ci si trovava poi al bar a fare una chiacchierata, alla fine del concerto Paolo è venuto da me e mi ha veramente fatto svenire, perché mi ha detto che nel backstage, prima di salire sul palco, Ornette Coleman ha chiesto a Paolo chi avesse scritto la sigla, perché gli piaceva molto le sonorità della sigla. Quindi per me è stata una grandissimissima soddisfazione, insomma. E quindi legato al jazz in tutti gli effetti, anche se i tuoi studi partono, come da tutti quando si è piccolini, si ama più il pop che non il jazz, il rock. Come c'è stato questo passaggio, questa curiosità di andare verso questo mondo sconosciuto forse a quel tempo, il mondo jazz? Assolutamente. La cosa che dici è perfettamente vera. Io nasco con rock. Io sono nato negli anni 70, quindi credo che come tutti i ragazzi di quegli anni mi sono avvicinato alla musica con i grandi miti del rock degli anni 70, quindi dai Police, Van Halen, AC/DC, Deep Purple, Black Sabbath e quant'altro. Ma la mia passione è sempre stata una passione per la musica. Io in realtà nasco come musicista classico, perché vengo da una famiglia di musicisti. Mio papà, gli zii e i miei zii sono tutti musicisti. Mio papà poi ha abbandonato, ha deciso di fare l'imprenditore perché probabilmente rendeva di più, ma faceva il musicista una volta. E crescendo io ho iniziato ad avere la fortuna di trovare in casa mia un po' tutti gli strumenti, pianoforti, violini, chitarre, mandolini e quant'altro. E quindi la mia curiosità mi ha portato da prima agli studi classici. Io ho studiato a 9-10 anni pianoforte per qualche anno, con risultati, devo dire, abbastanza scarsi. E poi nel tempo, come sempre, le prime band che si formano, iniziai come batterista nella mia prima band. Dopodiché, siccome mancava il cantante, io insomma più o meno mi presentavo abbastanza bene, ero quello più alto, che aveva i capelli un po' più lunghi degli altri, mi hanno fatto fare il cantante. Quasi la storia di Phil Collins, solo che lui rimane piccolo comunque. Sì. Ed è un tantinello più bravo di me, insomma, la batteria. Solo un tantinello. Quindi da lì la mia passione, inizialmente appunto per la musica di più facile approccio, diciamo di più facile approccio, che è il rock, ma anche la grande passione per la musica in generale, che mi ha portato a conoscere proprio ancora giovanissimo, a 14-15 anni, un grande nome della scena jazz, che è Mark Murphy, che per chi non lo conosce è lo storico cantante newyorkese, ormai quasi ottantenne, se mi sente mi picchia perché non vuole ammettere la sua età. E è iniziata una vera e propria passione per la sua voce, e di conseguenza anche una ricerca per quelle che erano le voci e poi per quelle che erano le radici del jazz. Quindi contemporaneamente mi ascoltavo Deep Purple e Led Zeppelin come tutti gli adolescenti dei primi anni 80, però riuscivo anche a scovare qualche disco di Charlie Parker e di Miles Davis, che insomma mi è servito molto per crescere. L'altra cosa, questo artista che hai appena citato ha al suo attivo una cinquantina di dischi, mi sembra. Mark ha all'attivo più di 50 dischi. Sì, tra l'altro poi la fortuna ha voluto che Mark, è in assoluto credo il mio più grande eroe musicale, alla fine metà degli anni 90, fine degli anni 90, io ho avuto la possibilità di conoscerlo di persona, di studiare con lui all'University for Music di Graz, dove lui insegnava, e poi è iniziato un rapporto di amicizia, insomma, talmente stretto che poi lui è diventato mio testimone di nozze. Quindi siamo poi molto molto amici, e lui mi è servito molto anche per aprirmi proprio alla conoscenza della musica jazz. Benissimo, adesso allora possiamo far sentire qualcosa dal vivo, possiamo far sentire agli ascoltatori come nasce un tuo pezzo, con cosa iniziamo? Ma sì, e con piacere, cambio microfono. Sì, cambia microfono, apriamo anche i microfoni collegati al looper, Eccomi qua, benissimo. Allora, sì, quello che dicevo prima lo possiamo veramente spiegare in due secondi. La Loop Station è questa macchinetta che io ho ai miei piedi. È una macchinetta che quindi mi permette in sostanza di ripetere le cose infinite volte. Se io dico per esempio buonasera a tutti e benvenuti a questa trasmissione, a tutti, rischiacciando il pulsante, sentite la mia voce viene ripetuta a questa trasmissione. Buonasera. Sulla base di questo processo abbastanza semplice, io ho iniziato a scrivere delle canzoni. La prima che vi faccio sentire è una canzone tratta dal mio vecchio disco, Insanology. È un brano a cui io sono molto legato, è un brano che scrissi a suo tempo in onore del grande Willie DeVille, che immagino voi ricorderete. Sì, sicuramente. Dei Mink DeVille. Dei Mink DeVille, grandissimo Willie DeVille. Demasiado Corazon, esatto, ce lo ricordiamo tutti. Famosa anche sì. nella trasmissione di Italia 1. Allora, la canzone si intitola Mind Joke e ve la faccio sentire. Inizia con un giochino ritmico. Immaginatevi di essere in Messico. I ritmi che si sentono in Messico sono questi. Ok, montato questo, aggiungo un po' di basso. Aggiungiamo un po' di ritmica. Ancora un po' di ritmica. Joe, don't be my monkey, funky Joe. So don't be my honky, donkey, funky Joe. Ora, immaginatevi un secondo messicano che arriva e fa questo. Joe, don't be my monkey, funky Joe. So don't be my honky, donkey, funky Joe. E un terzo messicano che arriva e fa questo. Don't be my monkey, funky Joe. So don't be my honky, donkey, funky Joe. Don't be my monkey, funky Joe. Alla vida, alla vida, poca vita, poca vita. Poco tempo a disposizione io. Questa vita, poche cose rimaste lì a metà. Perché a me piace come sei. Se piace soltanto come vuoi. Come sogno lei diventa, traduce nell'azione la mia testa. Joe, don't be my monkey, funky Joe. Se don't be my monkey, funky Joe. Don't be my monkey, funky Joe. Se don't be my monkey, funky Joe. La mia mente non è da sola, solo io convivo con la mia deviata deviazione. Riflessi più chiari e tu riflessi che riflettono che sei riuscita bene. Sei la strada storta e curva, vita distorta e corta. Gioca mentre ritorna la fatica per dare alla tua azione la mia idea. Joe, don't be my monkey, monkey Joe. So don't be my monkey, donkey. Don't be my monkey, funky Joe. So don't be my honky, donkey, funky Joe. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rimaniamo senza parole. Estasiati, tutto live. Giustamente poi si dice, ma assolutamente tutto live. Tutto live. Tutto sì, live. No. Questa è una cosa che dico sempre, perché ci sono alcuni quadretti divertenti che poi ho imparato a collezionare nel tempo. Tipo lo scorso anno, durante il mio penultimo tour in Russia, ero in un teatro, ho fatto un bel concerto, contento, c'era molta gente, ho venduto molti dischi, che è sempre un bel segnale di questi tempi. Sì, che indica che il concerto è stato apprezzato. Alla fine uno degli organizzatori mi porta in camerino e mi guarda con la faccia un po' così, col sorriso un po' beffardo, mi dice: dai dai, mi dice in inglese, dai dai, adesso me lo puoi dire. E io lo guardo e gli dico: cosa potrei dirti? No, dimmi la verità, dov'è il computer? Ho detto: scusa? No, perché dai, sicuramente c'è un computer da qualche parte, dov'è le basi? Ho detto: no, non ho le basi, è tutto rigorosamente dal vivo. Vi giuro, ho dovuto prendere una cuffia, rimetterla nell'off station e fargli vedere che non c'era niente. Non ci credeva. E fargli se... alla fine era entusiasta. No, you're a genius, queste robe qua. No, però è una cosa di cui sono veramente orgoglioso, perché poi, come hanno notato alcuni critici in Italia e fuori, cosa che a me ha inorgoglito molto, nonostante questa parvenza un po' ironica anche dei miei spettatori, spettacoli, anche delle canzoni che scrivo e che incido, in realtà dietro c'è un lavoro abbastanza pesante, insomma. Quindi ci tengo anche a dire: guardate che tutto quello che sentite è live. Siamo nell'epoca in cui chiunque va su un palcoscenico, mette le sue belle basi e fa belle figure. Credo che rimarcare questo sia abbastanza importante. Per chi ancora non ci crede, ci sta ascoltando, potrà vedere poi nella nostra pagina di Facebook anche le foto che ti ritraggono mentre stai cantando e mentre stai pestando su quelle. Sì, ormai è diventato divertente. Sulla pedaliera. Sono diventato una specie di piovra, per cui con i piedi pesto la pedaliera, con le mani muovo tutta una serie di altre macchinette. Sì. Spero di non farmi mai male un braccio o una gamba, se no sarebbero cavoliacci. No, assolutamente. No, speriamo di no, chiaramente. Vabbè, però ci può essere sempre l'assicurazione per le mani, per i piedi, per la bocca. Assolutamente, quindi, sì. Fondamentale. Fondamentale. Quanto ci hai messo, sì, Boris, a elaborare questo nuovo album? Ma è stato un lavoro che potrei usare una contraddizione di termini, sia breve che lungo. Breve perché in realtà la scrittura dei brani, per scrittura intendo dire la struttura armonica e le melodie principali, le ho fatte veramente in pochi giorni. Credo di averci lavorato una settimana in maniera molto intensa. Io in questo sono molto bresciano, cioè del tipo 16 ore al giorno, ma perché poi, come dire, è un flusso che se si fa partire è bello portare avanti così. Le rifiniture sono state più lunghe, ma perché in realtà io ho inciso di botto molte parti. Dopo, siccome l'album è molto composito, pieno di molte sovrapposizioni, poi la rielaborazione, la levigatura, il posizionamento della voce nello spazio corretto dei 360 gradi musicali è stato un po' più complesso. Quindi un lavoro decisamente certosino poi per la parte. Sì. Sì, lo deve essere perché nel momento in cui ti trovi a trattare brani che arrivano a contenere anche 40-45 voci, ne parlavamo prima, certo. Se non le posizioni, ci sembra una banalità detta così, ma se non le posizioni il risultato è un mascherone inascoltabile, cioè vi risulta proprio una bomba di suono da cui non distingui sostanzialmente nulla. È proprio come avere 45 persone, per dire, che se vuoi farle cantare bene in un coro le devi anche posizionare in maniera corretta. Se voi vi immaginate un coro classico, i soprani da una parte, i contralti da un'altra, i bassi da un'altra, cioè bisogna proprio dare questo senso di spazialità, e quindi il lavoro richiede anche una certa perizia. Anche questa sincronizzazione tra voce e mano che parte nello schiacciare per arrivare a non avere tempi morti, è proprio questo che... Sì, e anzi questa è una bella considerazione, una bella domanda, perché in realtà ancora una volta, pur apparendo la mia musica fortemente influenzata dall'elettronica, in parte lo è, in realtà uso macchine molto vecchie come concezione, cioè tutto quello che mi porto in giro potrei sostituirlo con un computer, ma non lo amo perché il computer mi vincolerebbe troppo delle scelte che sono quelle di coloro che hanno inventato il software, mentre con le macchine prevalentemente analogiche o semi-analogiche io ogni sera posso modificare le cose in base a quella che è l'elemento creativo. Anche perché ci potrebbe essere la serata dove Windows non ne vuole sapere. Bravissimo, no? Per cui... bravissimo. Arriva l'analogico. Allora, esatto, io sono un convinto. Poi fondamentalmente se ci pensiamo anche col computer, in realtà quello che si è fatto è sintetizzare in un ambiente unico tutte le macchine analogiche, ma in realtà si va a cercare di riproporre il suono analogico. Vi faccio un esempio dei più classici, visto che siamo tutti vecchi rocchettari. Immaginate il suono dell'Hammond. Sì. Di John Lord. Sì. Certo. Sono stati spesi miliardi per riuscire a simulare, a trovare un suono simulato simile. Ci sono riusciti. Peccato che hanno scoperto dopo che il suono dell'Hammond nasce dalla combinazione tra il suono che è stato sintetizzato, ma tutte le parti meccaniche, che anche quelle risuonano. E non dimentichiamo la ventola. Bravo. E quelle non riescono a riprodurle. No. Tant'è che quando tu ti ascolti un Hammond vero, il calore che ha è tutta un'altra cosa. Certo. Il calore, poi hai detto una cosa giusta: il calore che emana un Hammond è una cosa fantastica. Sì, perché è un processo meccanico, e come tutti i processi meccanici è influenzato da mille cose, da come tocchi il tasto, da come il tasto va sulla... cioè tutta una serie di elementi che insieme formano il suono. E parlando di John Lord, il famoso disco che ha fatto da solo con l'orchestra, il Lemon l'ha usato e l'ha riusato, esatto, alla grande. Poi questi personaggi qua, io ho avuto la fortuna a San Paolo il mese scorso, di condividere peraltro albergo e il palcoscenico con un altro grandissimo dell'Hammond che è Brian Auger. Non volevo chiederlo prima, quando sei venuto qua, però a microfono spenti. quanto bravo era e quanto bravo è ancora adesso. È incredibile, ma non solo quanto bravo, la cosa che più mi fa impazzire, ho avuto la fortuna in questi ultimi anni di togliermi parecchie soddisfazioni. E molte di queste soddisfazioni sono state conoscere questi che sono certo. stati miti di gioventù, e tra l'altro scoprire che molti di questi avevano pure il mio disco, perché il mio manager è molto bravo e amico di questi. La cosa che mi ha impressionato di Brian Auger, e che credo che sia veramente quello l'elemento che lo distingue da mille altri o da 100.000 altri tastieristi, è la passione con la quale suona ancora. Cioè ha 72 anni ed è un uomo che quando è sul palcoscenico sembra un bambino di 16 anni. Cioè è meraviglioso, vedi proprio che gode quello che sta facendo. Cioè si rende conto che è un fortunato e un privilegiato, che anziché essere settantenne che se ne sta a casa a guardare la televisione magari con la copertina, gira il mondo ancora e la gente va ad ascoltarlo, e ha un'energia, una vitalità che viene proprio dalla voglia di fare musica, che è incredibile. Sono i classici artisti rock, si definiscono così. Assolutamente sì. Benissimo, allora quello che abbiamo ascoltato prima era un brano del 2007, ricordiamo Insanology. Torniamo a quello che invece è la nuova produzione, quindi Bio Cosmopolitan, un titolo che poi arriveremo anche a capire il suo significato, però ci concediamo una pausa per ascoltare proprio il pezzo che dà il titolo all'album e poi torniamo a commentarlo insieme, perché c'è anche una sorpresa, se non sbaglio, all'interno di questo pezzo che andremo ad ascoltare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. You were never all alone. You were never all alone. You were never all alone. You were never all alone. All alone. All alone. All alone. You were never all alone. You were never all alone. You were never all alone. You were never all alone. You were never all alone. All alone. All alone. All alone. You were never all alone. Hey, hey, hey. La metropoli, la città di mille angoli. La città non dorme mai in cemento. Anidridica, solforidica, nasconde ossigeno. Luci accese, luci appese. Lights in underground. Io ti vedo everywhere you wanna go. She's watching you. Everywhere you wanna go. Watching you. What you do? Lights on me and lights on you. Ora io ti vedo. All the lights are always on. You were never all alone. I can feed you, little mama. I can kiss you, little sister. And I can see you do the right thing. And dancing in the road and the light. Roam and raise a voice. Give it a choice to the voice you will raise. You will never all alone. You will never all alone. And raise a voice. Give it a chance to the voice you will raise. You will never all alone. People will die beyond the world. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua sempre su Blu Radio Veneto, questa è Blu Radio Sera, ancora benvenuti a tutti carissimi ascoltatori, siete con Flavio e Maurizio, non siamo soli in questa serata, stiamo ospitando Boris Savoldelli, ci sta presentando le sue canzoni, i suoi ritmi, Bio Cosmopolitan è il disco in particolare che stiamo vivendo questa sera e Bio Cosmopolitan è anche il titolo della canzone che siamo andati ad ascoltare, una canzone davvero particolare perché vede anche come protagonista un ospite. Ancora buona serata anche a Boris che è qui con noi. Ancora ciao a tutti, sì, l'ospite è per me un grandissimo onore averlo avuto, Jimmy Haslip, che per chi non se lo ricorda è stato il leader storico, il fondatore, il cofondatore degli Yellow Jackets, band di fusion, jazz fusion nata negli anni 80, ma lui è un turnista, ha suonato con tutti, dagli Steely Dan a Madonna, insomma, e sono più quelli con cui ha suonato di quelli con cui non ha suonato. E Jimmy è veramente uno dei miei eroi musicali, è stato lui e William Kennedy, che era il batterista ed è ancora il batterista perché è ritornato quest'anno degli Yellow Jackets, sono stati coloro i cui dischi io ho consumato per imparare i ritmi scomposti, cosa di cui mi sono veramente intrippato negli anni 80 particolarmente. Quindi ancora col vinile? Sì, sì, assolutamente, conservo ancora gelosamente i primi dischi di The Spine, i primi dischi degli Yellow Jacket in vinile, li ho fatti vedere anche a Jimmy. E quindi l'idea di aver avuto Jimmy Haslip, così come Paolo, ospite del mio disco, ovviamente è stata una cosa che mi ha onorato molto. Peraltro, avendo l'autorizzazione da entrambi a dirlo, lo dico sempre perché trovo importante questa cosa anche come orgoglio mio, Jimmy Haslip e Paolo Freso hanno partecipato a questo disco in maniera totalmente gratuita. Vorrei dirlo perché, insomma, diciamocela, certo. Se si hanno un po' di soldi in tasca... Chiunque, sì, parte, chiunque, cioè, se io domani ho un po' di centinaia di migliaia di euro, viene anche Elton John a farmi i cori, e sarei onoratissimo, ma al momento il suo cachet per me è un po' altino. Mentre loro, che hanno comunque ovviamente ragguardevoli cifre, essendo musicisti di alta qualità, certo, hanno deciso di partecipare al progetto per aiutarmi in qualche misura ad avere dei riconoscimenti e a, come dire, instillare curiosità nella stampa specializzata e, negli ascoltatori. Questo mi ha molto inorgoglito, ovviamente, perché insomma, sono persone che un po' di buona musica l'hanno ascoltata, quindi il fatto che decidano senza prendere soldi di partecipare a un mio disco ovviamente per me è una grande gioia, insomma. E la stampa specializzata, hai fatto 100 nella stampa specializzata, perché tutte le recensioni del tuo disco sono state tutte positive al 100%. Sì, devo dire che fino adesso, facendo i debiti scongiuri che da oggi in poi non succede al contrario, ma no, spero di no, insomma, fino adesso sì, sia in Synology che questa nuova, sì, ma che anche Protoplasmic in mezzo, anche se molto più complesso e molto più di area avanguardista, e questo Bio Cosmopolitan che è neonato, perché lo ricordo che è uscito da poco, uscito a metà di marzo in tutto il mondo, sta avendo veramente delle bellissime recensioni sia in Italia che all'estero, e questo mi inorgoglisce molto, insomma. E per vedere le recensioni tutte insieme si può andare nel sito ufficiale? Allora sì, io ho un sito ufficiale che è www.borisinger.eu, dove c'è una parte di area stampa che adesso a breve riaggiornerò poi con le nuove recensioni che sono uscite su Bio Cosmopolitan, ma di cui invece sulla quale c'è la possibilità ancora di leggere molte delle recensioni che fino ad oggi sono uscite. State su fatte. Di me. E poi gli aggiornamenti li faccio anche col quello che ormai è diventato lo strumento più comune di comunicazione, il looper, no, Facebook, Facebook, che è diventato, certo, più, sì, del looper, dove cerco di postare e mettere un po' tutte le cose che stanno uscendo. Tra altre cose ho visto che tutte le recensioni ce ne sono in inglese, in francese, beh, anche in italiano naturalmente, quindi vuol dire che sei apprezzatissimo anche all'estero. Sì, anzi, devo dire, ne parlavamo prima della trasmissione, devo dire che la mia carriera, se così vogliamo dire, è partita prima all'estero che non in Italia. Stiamo cominciando ora, negli ultimi mesi, a cercare di far conoscere un po' il mio nome anche in Italia, perché la mia credibilità è stata costruita, sono contento di questo perché insomma da qualche parte bisogna pur cominciare, più all'estero che non in Italia. Io ho iniziato negli Stati Uniti proprio perché, lo ricordiamo, la mia etichetta, la Moon June Records americana di New York, e da lì poi ci siamo spostati per una serie di combinazioni divertenti nei paesi dell'est, in particolar modo in Russia e Ucraina, dove ho avuto la fortuna di fare parecchi tour. Ultimamente ci stiamo spostando anche sull'America Latina, l'ultima testimonianza è questo concerto grosso in Brasile, in questo mega festival, e quindi pian pianino stiamo conquistando un po' diverse piazze, ed è divertente, insomma. Mi sono trovato anche, questa la conservo perché è stupenda, due recensioni uzbeke, cioè fatte in Uzbekistan, scritte fortunatamente in inglese. In in inglese. Benissimo, allora vediamo di spingere ancora di più quello che è il lavoro, prendendo ancora una volta il microfono. E cosa ci regali dal vivo, Boris? Cambio di microfono. Ecco qua. Eccomi qui. Allora, io proprio per continuare e cercare di far intuire agli ascoltatori qual è la tecnica che faccio, ovviamente invitando tutti poi ai prossimi concerti che si possono trovare sul mio sito, vi faccio un brano che si intitola My Blue Child, che è un brano anche questo tratto dal vecchio disco, visto che stiamo sentendo direttamente dal disco i nuovi brani, ma che io ho riarrangiato in maniera completamente diversa. L'idea è stata quella di fare un brano in cui sostanzialmente io riproduca, in un attacco di megalomania assoluta, una piccola orchestra d'archi. Quindi di strumento in strumento vi descrivo quello che vado a fare e che vado a incidere in tempo reale. Quindi immaginatevi che adesso io scompaia e compaia invece un contrabbasso, in quelli grossi di legno, con cui comincio a fare la prima parte. Tum, tum, tum, tum. Questo è il contrabbasso. Adesso parto con la costruzione degli arrangiamenti, prima del primo violino pizzicato che fa così. Ora costruiamo il secondo violino pizzicato. Ora il primo violoncello. Il secondo violoncello. Corno inglese. Il secondo corno inglese. E la fine l'oboe. Sulle mie coordinate, segnali di tempesta boreale, le raffiche di vento disegnano scenari che appartengono alla mia immaginazione. Mille ipotesi contrarie ed ogni altra decisione, perché oggi le mie nuvole dovranno riposare. My blue child, gone sweetheart, raise the moon, is up in your mind. Look around, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, took a round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, took a round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, round, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E siamo ancora con Boris Savoldelli, che ringraziamo per essere qui con noi in questa serata. Un altro brano del 2007, un altro brano tratto da Insanology, che è stato anche l'album che ha dato il via importante a questo lavoro di ricerca vocale di Boris Savoldelli. Hai sfiorato anche il canto gregoriano stasera. Secondo me ci sei molto avvicinato. Beh, sai, sono pur sempre italiano, insomma. Certo. Questa è una delle cose che amo molto quando vado un po' in giro per il mondo, perché, come dire, quelle cose che per noi sono quasi patrimonio acquisito, voglio dire, non che il canto gregoriano sia proprio una cosa così comune, però, insomma, da italiani qualche occasione per ascoltarlo l'abbiamo avuto, anche solo nelle occasioni convenzionali della nostra vita. Portarli poi fuori diventa molto affascinante. Mi sono sentito dire veramente tante volte, soprattutto negli Stati Uniti, perché i paesi dell'est culturalmente sono più vicini a noi come tradizioni musicali. Mi ha fatto veramente molto piacere molte volte che ho avuto occasione di suonare negli Stati Uniti, a New York piuttosto che a Seattle, di avere alla fine commenti di musicisti o di appassionati di musica che ritenevano esotiche cose che sono molto italiane. Magari prima della fine della trasmissione vi faccio un brano che si intitola Moon Church, sempre del mio repertorio, che è un pezzo che io ho scritto ispirandomi ai canti delle Alpi, ai canti degli Alpini, certo, da cui io provengo, no? E che quando li ho fatti mi ricordo ancora come fosse ieri allo Stone di New York, locale storico di John Zorn. Citiamo un secondo, visto che spesso volentieri hai suonato là. Com'è questo locale di John Zorn? Innanzitutto credo che sia questo locale, come John Zorn, come molta di questa musica, non poteva nascere che a New York. New York, ho una venerazione assoluta per quella città. Non a caso stasera c'ho pure la maglietta di Andy Warhol, che è uno dei miei. Non abbiamo webcam, ma effettivamente confermiamo al 100% che la maglietta di Andy Warhol. Magliettina di Andy Warhol, che è uno dei miei miti. Ma allora, New York è una città veramente straordinaria. E nonostante viva grossissime difficoltà, non ultima quella della follia dei prezzi, la follia degli acquisti delle case, che è cresciuto ormai in tutta la zona che era la zona di downtown, della bassa downtown, dove in realtà fino a qualche anno fa era il famoso Wild Side dipinto da Lou Reed, la sua meravigliosa canzone. In realtà oggi è diventato un posto in cui per trovarsi un appartamento di 50 metri quadri devi avere 10.000 euro al mese, perché sennò non ci vai. Però nonostante tutto, New York, proprio perché è un crogiolo, perché è come dire la città che ha dato il via a quasi tutti i fenomeni moderni dell'ultimo secolo, continua ad essere una città che produce, che dà grandi cose. Lo Stone è in realtà un locale piccolissimo. È una sala ascolto, tant'è che allo Stone non potete né acquistare da bere né da mangiare. Solo sentire, perché c'è una strana normativa in America per cui un locale per avere la licenza anche per vendere bevande deve avere tutta una serie di cose abbastanza complesse. Per cui John Zorn, in realtà la storia la conosco abbastanza bene perché l'ho anche vissuta di persona. Fino a qualche anno fa c'era un locale storico che si chiamava Tonic, dove ci sono stati un sacco di concerti bellissimi, dove anche ho avuto la fortuna di vedere un sacco di bei concerti, se non che per queste questioni di costi folli degli affitti hanno dovuto chiuderlo. John Zorn, intelligentemente, essendo lui un grande animatore oltre che un grande musicista, ha ritenuto che fosse fondamentale mantenere un luogo comunque a New York dove poter fare musica d'avanguardia, dove poter non cadere nella banalità della musica di tutti i giorni, e quindi con l'aiuto di un gruppo di musicisti hanno acquistato questa piccola sala d'ascolto che si chiama The Stone, proprio nel cuore di quello che era Wild Side una volta, cioè tra la seconda strada e la nella zona sostanzialmente bassa di Manhattan, e lì ha creato questo locale che è diventato storico anche perché un anno e mezzo fa Lou Reed ha registrato lì uno storico live con Mark Ribot, con Laurie Anderson. È verissimo. e per me era un locale mito, quindi immaginatevi quando ho ricevuto la mail di John Zorn in cui John si complimentava per il mio primo disco Insanology, che gli era stato suggerito da Mark Ribot, che suonava nel mio primo disco, e mi invitava a suonare. Cioè, per me è stato veramente una roba da svenire, tanto che ve lo assicuro, questa è pura verità, conservo ancora la mail. Dopo aver ricevuto la prima mail di John Zorn, la mia risposta fu, lo dico sfumato perché siamo in radio, non è carino dire la volgarità, ma va, puntini puntini, non sei John Zorn, sei qualche mio allievo che sta facendo il cretino, mi piglia in giro. E invece lui mi rispose dicendo: guarda, sono io, anzi questa è la mia mail personale, non darla in giro. Ho apprezzato molto il tuo. E non era il primo di aprile, e non era il primo di aprile, ma ho temuto fino all'ultimo che mi fossero messo in saccoccia. E invece quindi una emozione fortissima, insomma. Sì, assolutamente sì, ma anche perché poi sai, trovarsi su, ancorché piccolo, in un locale piccolo come lo Stone, ma un locale che ha fatto e fa suonare tutti i più grandi, cioè i più grandi, cioè quelli di cui ho tutti i dischi, e trovarmi lì, cioè per me è stata veramente una cosa unica, cioè lo ricordo ancora e probabilmente rimarrà, salvo che non ho qualche grande fortuna di suonare a Madison Square Garden, probabilmente il più grande concerto in termini di emozione che io abbia mai fatto. Insomma, era incredibile, una cosa fantastica. Anche perché sul palco tu effettivamente occupi un metro quadrato. Esatto, quindi... fortunatamente piccolo. Allora mi è andata bene. E per la strumentazione, quindi non hai bisogno di aerei privati per... Assolutamente no, riesco a viaggiare con la... No, infatti, vado molto facile su questa cosa qua. Benissimo. Adesso io volevo ascoltare un altro pezzo, tanto per prendere un po' di fiato, e poi torniamo a parlare. Abbiamo scelto un'altra traccia, sempre tratta da Biocosmopolitan, la traccia numero 5, che si intitola Kerouac New York City e che vede come special guest Paolo Fresu. Bene, allora l'ascoltiamo e poi torniamo qui insieme a commentarla. Blu Radio Sera. The meaning, my shining love is a proof of my truth. Come, I'm coming, don't you leave me. I cannot live without giving it up. This is my own helping hand. She guides me, she gives me my own jerky head. Amazing and beautiful light. A wonderful way to be right and alright. Unable, she gets me away. No kissing, no smiling when I'm on my way. My head is a pumpkin, I walk on the wall. Sing and that's all, rain is falling. Come, I'm coming, what's the meaning? My shiny love is a proof of my truth. Come, I'm coming, don't you leave me. I cannot live without giving it up. A dog on the road and the road at the flow. Amazing and narrow and flow. It's moving and floating, it's dancing and saying, tonight I don't need any cure. Unable or able, it's pure. Rain on my way, I don't need any more. A deep blowing kiss, so watch me when I piss. A beautiful beast, you take care. Mosca che si beve la mia bibita del cuore. Annega di liquore, annega dopo muore. Mosca che si annega perché odia ricordare. Abusa ingiustamente senza chiedere permesso. Abusa la mia bibita d'amore. Mosca che si abusa, abusa e riconduce dentro la cessa. I'm coming, what's the meaning? My shiny love is a proof of my truth. Come, I'm coming, don't you leave me. I cannot live without giving it up. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do Mosca che si beve la mia bibita del cuore, annega di liquore, annega dopo muore. Mosca che si annega perché odia ricordare, abusa ingiustamente senza chiedere permesso, abusa la mia bibita d'amore. Mosca che si abusa, abusa e riconduce dentro al cesso. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo salutato questa canzone con una mosca che non è proprio finita bene. Vabbè, è caduta nella bibita d'amore. Sì, certo. Kerouac in New York City con la partecipazione anche di Paolo Fresu. Avrete sentito appunto l'unico strumento oltre che la voce, anche se entrambi sono due strumenti, diciamo, a fiato. Esatto. Esattamente. Il flicordo di Paolo, che è questo strumento meraviglioso, questa tromba più cupa nel suono che Paolo ama moltissimo. Lui ha questo vecchio flicorno e quando abbiamo deciso appunto quali brani andare a registrare la mattina che siamo arrivati in studio, Paolo aveva con sé sia la tromba che il flicorno, che flicorno. E abbiamo deciso, o meglio ha deciso, che io chiaramente gli ho lasciato totale libertà, certo, che andavo a dirgli cosa voleva fare. Paolo Fresu l'ha anche chiesto, lui è una persona meravigliosa, mi ha detto cosa vuoi che faccio, io ora ti ho detto vengo io a dirtelo, fai quello che vuoi. Ci mancherebbe altro. E ha voluto usare il flicorno e secondo me è proprio perfetto, cioè si adatta benissimo all'atmosfera del brano. Certo, tu pensi a tutta la tecnica, a tutto il montaggio, a tutto l'equilibrio della vocalità nelle canzoni, però c'è chi partecipa con te creandoti anche i testi. Sì, assolutamente sì. Mi fa piacere questo gancio perché credo sia doveroso, nel senso che io ormai da qualche anno ho questa collaborazione che sta fruttando molto bene proprio a livello di interazione con Alessandro Ducoli, che è un cantautore che è venuto qua, che è stato anche qua, infatti, esatto, che è un cantautore della mia zona. Abitiamo a un quarto d'ora di distanza uno dall'altro. Lui peraltro negli anni è stato mio allievo, pessimo allievo, lo dico sempre. È stato mio allievo di canto, mi divertivo a picchiarlo perché lui è un omaccio, avete visto, grande, ben grosso, messo, sì. Dagli qualche pedata, era divertente. Mi sta ascoltando in streaming audio, sono sicuro, e sta ovviamente cercando di inveire, cercando un telefono perché vorrebbe maledirmi, sì. E non lo può fare, verrà la prossima volta a dire qualche cattiveria. No, dicevo, con Alessandro, oltre che un ottimo rapporto di amicizia, c'è proprio questa grossa sintonia, e io l'ho sfidato in realtà su questo progetto, perché mentre facevamo lezione, al di là poi delle battute, si discuteva molto sugli approcci completamente diversi che lui ed io abbiamo e continuiamo ad avere nei confronti della musica. Lui è un cantautore, quindi parte necessariamente dal testo e poi costruisce come un vestito il brano, la canzone, la musica intorno al testo. Io faccio esattamente l'opposto, perché ho un approccio più da musicista, anche se sono un cantante, cioè uso la voce come strumento. E quindi quando si chiacchierava, si discuteva, io a un certo punto gli ho lanciato questa sfida. Stavo realizzando il primo disco in Sonology, gli ho detto: ma perché non provi a scrivere le liriche per il mio disco, però con l'approccio che voglio io, cioè io ti scrivo la melodia al sedicesimo, quindi tutta perfettamente scritta, e tu devi incastrare le parole che abbiano un senso compiuto all'interno di una melodia già precostruita. E lui ha accettato la sfida. Su Insanology è stato veramente un lavoro complessissimo, ci sono state discussioni infinite, liti infinite, perché io ovviamente pretendevo la precisione assoluta ritmica, lui ovviamente da cantautore voleva il senso e quindi si arrabbiava con me, cosa importa una terzina in più piuttosto che... È stata una lotta infinita, ma alla fine io l'ho avuta vinta perché il disco era mio, certo. E lui ha fatto un lavoro veramente splendido, sì, sì. E la stessa cosa abbiamo fatto con Biocosmopolitan, certo. Nel senso che, come si dice nel linguaggio calcistico, la squadra che vince non si cambia, abbiamo deciso di collaborare ancora e il lavoro è ancora una volta splendido, credo assolutamente bello, anche perché sai, poi facendo io questa musica abbastanza strana, giocando molto sull'ironia, avere comunque anche dei testi che abbiano una pregnanza, ancorché nei brevi spazi che io lascio, sicuramente un elemento in più aggiuntivo. Certamente. A proposito di squadra, ricordiamo la nostra squadra: Alberto Pisco è il nostro direttore artistico, grazie a lui stasera sei qua, e la Chiara che ha fatto le fotografie, e c'ha anche, io mi ero dimenticato, ho portato l'acqua, che è fondamentale, chiaramente. Ecco, ricordiamo che poi le fotografie che vengono scattate in questa serata saranno pubblicate anche sulla nostra pagina di Facebook, quindi andate su Facebook e trovate Blu Radio Veneto Rock Wave, diventate anche amici del nostro paginone, e poi vi potete vedere le foto di Boris Savoldelli, anche le foto degli altri artisti che nel corso del tempo sono arrivate, e soprattutto poi anche i nostri podcast, perché questa trasmissione è assolutamente interamente registrata e quindi scaricabile da internet. Stasera c'è anche Riccardo, che è un fan padovano di Boris, che giustamente è venuto ad assistere dal vivo al concerto di Boris qui in radio. Che sorpresa! Mi fregio anche di questo, voglio dire, è un onore avere anche un fan che addirittura viene fino a Padova, in realtà lui è di Padova, ma che decide di passare una serata anziché con la propria compagna o le proprie compagne, di venire addirittura a sentirvi dal vivo. All'insegna della buona musica. Bene, allora un'altra domanda che volevo farti, Boris, poi passiamo ancora un altro pezzo dei tuoi dal vivo. Qual è il tuo rapporto con la musica a cappella? Ma è un rapporto strano, nel senso che volutamente, allora, non ho mai avuto una grandissima passione per la musica a cappella, il che non vuol dire che non conosco i capisaldi. Insomma, ricordo benissimo Lambert, Andy Hicks e Ross, che probabilmente pochi si ricordano, che furono i primi negli anni 50 e 60 a fare jazz a cappella. C'era il grande John Hendrix, nulla a che vedere con Jimi Hendrix, che oggi ha quasi 90 anni, straordinario cantante, e poi insomma a venire dopo i Naturally Seventh nell'ultimo periodo, piuttosto che gli Swingle Singers, eccetera eccetera. Però devo dire che non ho una passione così ampia, e che non ho mai voluto più di tanto approfondire, proprio per evitare il più possibile di essere influenzato, di essere contaminato, sì, di essere contaminato. È chiaro che il mio riferimento, ma come credo per tutti i cantanti che abbiano cercato di muoversi al di fuori dai confini del canto cosiddetto convenzionale, necessariamente Demetrio Stratos, Diamanda Galas e Bob McFerrin. Su questo non ci piove. Anche Diamanda Galas, questo non lo sapevo. Sì, come mai Diamanda Galas? Ma Diamanda Galas perché rappresenta tutto quello che secondo me rappresenta la follia. Io esattamente la trovo straordinaria. Uno, nel modo in cui tecnicamente usa la voce, arriva proprio dagli estremi, tra l'altro a volte anche di dolore fisico, perché a volte capita spesso che debba interrompere i tour perché arriva, non per mancanza di tecnica, ma proprio perché arriva ad usare talmente tanto e in maniera talmente pesante le proprie corde vocali da necessitare dei fermi. Però lei è veramente, dal punto di vista interpretativo ed emotivo, è un'esperienza mistica. Io ricordo ancora una delle ultime volte che l'ho vista live in un teatro a Mantova durante il Festival della Letteratura. È stata un'esperienza letteralmente mistica, cioè io per un'ora e mezza sono rimasto completamente avvinto da questa. Poi lei è molto brava, devo dire, da musicista è stata molto intelligente a curare questo look totalmente in nero, questi capelli corvini, le luci sempre sul rosso, sul blu, molto cupe, col fumo, cioè è molto brava. I teatri, cioè, ha costruito un'immagine in maniera spettacolare, molto intelligente, però è sicuramente un personaggio unico, voglio dire, cioè di Diamanda Galas non ce ne sono altri. Ah, c'è solo lei, assolutamente. Io l'unica delle voci femminili che ricordo, ma forse anche altrettanto sperimentale, meno estrema forse, era Kathy Berberian, che fu un'altra immensa interprete femminile, voglio dire. Però questi credo che siano dei riferimenti fondamentali se uno onestamente si vuole avvicinare. Abbiamo dato sicuramente dei riferimenti importanti anche per gli ascoltatori, perché questa non è solamente una trasmissione di Boris Savoldelli, ma la trasmissione della musica, musica internazionale, e le citazioni sono preziosissime per andarsi a vedere, a curiosare, visto che internet ormai ce lo permette. Beh, sì, proprio... ormai basta andare su YouTube e digitare questi nomi, sì, e vengono tutti, e se non ci sono assolutamente va, si trova tutto. Vabbè, no, se non ci sono vuol dire non si è collegati. Speravo ci siano meno i dischi. Una volta c'erano, certo, i dischi, una volta qualcuno li comprava. Vabbè, allora mano ancora al tuo microfono live, Boris, ci fa ascoltare ancora qualcosa da Insanology? Rieccomi. Ma io farei riferimento a quello che ci siamo detti prima, che parlavamo del famoso brano considerato dagli americani un brano abbastanza esotico. Si intitola Moonchurch, e quando l'ho scritto invece pensavo a qualcosa di poco esotico, pensavo alle Alpi, che sono molto belle ma direi non proprio esotiche, pensavo agli alpini e pensavo a quelle domeniche in cui con i miei genitori andavo nei rifugi, e quando si tornava giù la sera si era sempre abbastanza ubriachi, insomma le quantità di vino erano abbondanti, non c'erano problemi delle patenti con i punti, e i bresciani, ma credo un po' tutte le persone del nord, quando hanno qualche bicchiere di vino cominciano a cantare. Io mi ricordo questi canti che onestamente da bambino, da ragazzetto, non disprezzavo ma non consideravo nella bellezza che in realtà hanno. Mi sono reso conto che hanno un grandissimo valore dal punto di vista musicale, quindi ho scritto un brano che si intitola Moonchurch, che in qualche misura fa un po' l'eco a questo tipo di canzoni, e lo faccio adesso. Parto con la ritmica così. Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t dentro nell'anima. Anima piccola dentro nell'anima. Anima piccola dentro nell'anima. L'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima, l'anima dentro nell'anima. L'anima, l'anima dentro nell'anima. L'anima, l'anima dentro nell'anima. Siamo anima, solo anima. Siamo anima, solo anima. Siamo anima, solo anima. Siamo anima, solo anima. Siamo anima, solo anima. Siamo anima, solo anima. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Il finale sembrava quasi come il segnale della Rai quando non c'erano le trasmissioni in corso. Me la ricordo ancora a distanza di tempo. Adesso me la ricordo anch'io. Sono 24 ore su 24. Ma una volta, fino alle 4 o 5 del pomeriggio, vero, è vero, c'era questo segnale. Esatto, e poi c'erano le signorine che scendevano nel giardino, sì, una in mano all'altra, è vero, me lo ricordo. Che difficoltà hai avuto a fare un pezzo simile? Secondo me è molto complicato, non è semplice. Io lo trovo più complicato degli altri, a mio parere. Hai ragione, nel senso che lo è. Lo è perché lo è stato da prima nel pensarlo. Mm. Perché, come dire, in poco tempo, con delle sovrapposizioni, non dimentichiamoci che dovendo lavorare di sovrapposizioni, ogni singola porzione non può fisicamente durare più di un tot di secondi. Cioè, io non posso fare una prima porzione di 2 minuti, perché il tempo che vado a fare le altre succede un patatrac, insomma, la gente non regge più l'ascolto. Mm. Quindi ho dovuto in prima battuta cercare di fare una sintesi, in maniera tale che in pochi secondi dovevo cercare di rendere quell'idea che avevo, cercando di non ripetere pedissequamente un arrangiamento, perché sennò sarebbe stato plagio, o comunque avrei fatto una cover e non era quello che mi interessava. E poi ogni volta che va rifatta, che quindi che mi trovo a farla dal vivo, anche proprio dal punto di vista degli equilibri sonori, è abbastanza complessa, proprio perché devo cercare di utilizzare la mia voce. In sintesi, la tua domanda mi piace molto perché mi permette di dire alcune cose che non sempre vengono fuori. C'è tutto un filone anche di musicologia che lo stesso Demetrio Stratos abbracciò negli anni 70, che ha una filosofia bellissima, cioè che sostiene che in realtà gli strumenti musicali, sia ritmici che armonici che melodici, sono l'imitazione della voce umana. Ed è un'affermazione molto affascinante, ma se ci pensi è molto vero. Cioè, se noi ci mettiamo davanti a uno specchio e facciamo uscire un suono, un po' come quello che ho fatto io prima, ma senza avere tecnica vocale, e muoviamo semplicemente le labbra o la lingua, i timbri e i colori della voce che escono sono veramente infiniti. Quindi la ricerca che sto anche cercando di fare, dopo aver fatto, come dire, il pieno di tecniche, aver studiato per un sacco di anni di tecnica vocale, e lo faccio ancora perché mi piace, lo insegno anche, è proprio cercare di andare a trovare quei micro equilibri per cui basta veramente poco per andare a cambiare la propria voce. E Demetrios era arrivato agli estremi. Assolutamente sì. Una delle cose, questo credo che sia... anche qui la tua considerazione mi piace perché mi permette di dire questa cosa che capita raramente di dire. La grandezza di Demetrios Stratos, e lo dico da grandissimo estimatore e credo anche profondo conoscitore di Demetrio, non è stata tanto in, come dire, quello che ha ottenuto. Attenti bene, ha ottenuto cose immense, irraggiungibili, però io credo che il suo vero valore storico non sia stato tanto quello, quanto la grande capacità di provare ad andare oltre. In questo io lo trovo molto simile a Jimi Hendrix. Cioè, diciamocela tutta, Jimi Hendrix, se lo ascoltassimo oggi, ok, senza capire il valore storico che ha rispetto a tanti manettoni, ragazzini di 20 anni che hanno una tecnica fuori di testa, qualcuno, e direbbe una bestemmia, potrebbe dire che non era quel grandissimo chitarrista che era. In realtà la grandiosità di Jimmy, oltre ad avere una tecnica incredibile, un grande senso, un grande feeling, stava proprio nella capacità di spingere oltre uno strumento. Cioè Jimi Hendrix inventava l'effettistica. Vero questo. Cioè, oggi noi abbiamo ci scarichiamo i programmi craccati, diciamocelo, dal col computer e li attacchiamo nel computer. Non fatelo. Ecco, non fatelo, però ci sono dei ragazzini di 15 anni che hanno una libreria suoni che farebbe invidia a qualunque musicista 10 anni fa, ok? Però poi non li usano. Jimi Hendrix, e qui lo trovo molto simile a Demetrio, erano capaci di precorrere i tempi, cioè di arrivare a spingere oltre la propria ricerca per andare a vedere che cosa c'era al di là. In questo sono stati immensi. Cioè Demetrio ha giocato contro se stesso, cioè la sua voce la metteva in serio pericolo quando faceva gli studi sui limiti del linguaggio, peraltro all'università qua di Padova. Ok, cioè lì è stato secondo me veramente immenso, cioè è riuscito a mettersi in prima posizione per andare a ricercare qualcosa di nuovo. Territori inesplorati che ancora oggi per molti versi sono inesplorati, e questo è secondo me affascinantissimo. È verissimo. E forse anche nel suo periodo, quando andava a cantare, non era così fortemente considerato come invece è stato rivalutato adesso che non c'è più. Come sono un grande artista, come un grande pittore, un grande scultore, che le opere non valevano in tempo di vita, ma ora... Sono convinto di sì. Guarda, io ho avuto una conferma in questi anni, ho avuto il grande piacere di poter conoscere di persona, non Demetrio perché è morto quando aveva 9 anni, ma ho conosciuto di persona Paolo Tofani, con cui mi ricordo la prossima settimana. Di volte. Che ha suonato un sacco negli aree, ho conosciuto Patrizio Fariselli, ho conosciuto molta gente che girava intorno a Demetrio, e onestamente queste persone mi dicevano che in realtà molti di quelli che oggi osannano e come dire incensano Demetrio Stratos, in realtà quando Demetrio era ancora vivo non è che lo apprezzassero più di tanto. Non ci capivano, questo è vero. Niente della musica. Anzi, a volte aree, questa roba qua rompeva anche un po' le scatole, cioè questo qui che faceva tutte queste voci, che senso aveva? E credo che questa cosa poi abbia anche colpito Demetrio. Del resto lo sappiamo tutti, insomma, Demetrio è morto per quella terribile malattia, però il concerto che organizzavano, che poi fu purtroppo il grande concerto a Milano, fu purtroppo un concerto di commiato, perché lui morì il giorno prima del concerto, venne fatto per raccogliere i soldi per pagargli le cure americane. Non era né ste grande famoso né ste grande ricco neanche lui, esattamente. A proposito di questo concerto, noi mesi fa, l'anno scorso mi pare, abbiamo intervistato Claudio Rocchi parlava di questo, perché Claudio Rocchi è stato uno degli organizzatori di quel mezzatontico concerto. Era uno degli amici di Demetrio. Esattamente. E se tu noti una cosa, se tu senti i pugni chiusi cantati da Demetrio, era beat italiano, però era un modo di cantare totalmente diverso dal beat degli altri, che i ribelli con lui avevano determinati suoni, determinati sviluppi. Sono assolutamente d'accordo, ma penso che poi ho scoperto un'altra cosa interessante su Demetrio che non sapevo in questi anni, da fan. Mi raccontava Paolo Tofani, e poi ho avuto modo di trovare qualche vecchia registrazione, c'è qualcosa anche sul web, che Demetrio, nel periodo a cavallo tra i ribelli e gli area, poiché parlava bene inglese, cosa che anche oggi non è poi così comune in Italia, ma all'epoca era molto poco comune, spessissimo quando la ricordi allora, prendeva dei brani e voleva esportare brani italiani per il mercato americano, chiedeva di fare dei provini, li faceva registrare a Demetrio. Perfetto. In inglese, proprio perché la sua pronuncia era buona, per poterli poi rivendere al mercato americano. Quindi ci sono queste chicche R&B soul cantate da Demetrio di brani italiani. Ti ricordi che c'era, sì, il periodo, certo, ricordo, c'era il periodo in cui il brano americano veniva rifatto in italiano e viceversa, e lui li cantava per il mercato americano per darli poi agli artisti. E ti ricordi R&B, c'è quel famoso pezzo scritto da Lucio Battisti per il Festival del Sanremo, era un R&B assolutamente perfetto. Assolutamente sì. Vabbè, torniamo, okay, torniamo a parlare della perfezione invece musicale di Boris Savoldelli, presentando un altro pezzo dal lavoro nuovissimo che è venuto a presentarsi questa sera, che si intitola Bio Cosmopolitan. Andiamo con la traccia numero 10, che si intitola Love City. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua un'altra traccia da Bio Cosmopolitan, la numero 10, Love City. Ma volevo chiedere, non l'abbiamo mai chiesto dall'inizio della trasmissione, come mai questo titolo Bio Cosmopolitan, dove si parla tanto di bio? Ma allora devo c'entra dire qualcosa. Che c'entra qualcosa. Allora, dopo aver scritto il disco e averlo passato, poi letteralmente passato nelle mani di Alessandro perché ci facesse i testi, abbiamo ovviamente discusso ampiamente e abbiamo deciso che questo disco aveva delle sonorità tali da poter tranquillamente essere dedicato alla grande città. In particolar modo il riferimento non è una grande città in generale, sì, può raccogliere le grandi città in generale, ma il riferimento esplicito è proprio New York, che in questi anni per me è stato molto importante anche per una serie di avvenimenti che riguardano la mia carriera di musicista. L'idea di Biocosmopolitan è proprio questa sorta ancora di costruzione di quasi parola nonsense che unisca appunto il concetto di grande città quasi come un organismo vivente. In effetti, se noi ci immaginiamo ad una grande città, prendiamo New York o una qualunque altra grande città, e immaginiamo di vederla dall'alto, un po' come quando ci arriviamo con l'aereo, risulta proprio una sorta di corpo vivente. È un corpo vivente, con tutte le auto che si muovono, con i mezzi pubblici, con le persone. E quindi ci piaceva molto, e a me ha affascinato molto questa idea di parallelo tra l'organismo vivente composto da mille cose, anche elementi negativi, elementi positivi. Immaginatevi i virus di questi giorni, il problemino del nostro virus, che non è fortunatamente dei miei amati germogli di soia, e neanche dei cetrioli, e per fortuna mi piacciono già meno, ma i germogli di soia mi creava, perché mi piacciono tanto, sì. Voglio dire, e quindi l'idea di questo parallelo tra un organismo vivente, la città, ci affascinava molto, e da qui nasce l'idea di Biocosmopolitan. Tra altre cose, questo disco è formato da 16 tracce audio e poi c'è anche un bonus video. Sì, quella è stata un mio regalo, nel senso, un regalo a me stesso e non al pubblico, spero anche al pubblico, ma nasce da una follia. Io da qualche tempo collaboro sempre nella mia piccola valle, sono un convinto provincialista in questo senso, nel senso che ritengo che anche noi persone di provincia, se ci mettiamo, possiamo fare le cose bene. Collaboro da tempo con un gruppo di amici che hanno una casa di produzione, loro si chiamano Frame Lab, lui si chiama Alessandro Romela, è un regista molto giovane ma molto molto molto bravo, e tempo fa ci dicevamo, insomma, che sarebbe stato bello fare qualcosa insieme. Allora io, quando avevo in mano i brani che stavano per essere terminati sul disco, ma ancora agli inizi, gli ho dato una promo tape per ascoltare un po' qual era l'andamento, e gli ho detto: guarda, se trovi qualcosa che ti ispira per pensare ad un videoclip, ragioniamolo. E lui ha scelto The Miss Kiss perché mi ha confessato che uno dei suoi sogni era proprio quello di fare un video in costume. La mischissa delle sonorità molto anni 40, anni 30, anni 40, quindi abbiamo deciso di fare questa follia, quindi di imbarcarci nella realizzazione di questo videoclip ambientato nella vecchia Chicago degli anni 30, con tutti i personaggi in costume e col sottoscritto che, esattamente come nella realtà musicale, interpreta 12 personaggi diversi. No, è bello da vedere, perché c'è questo locale fumoso, c'è la gente che gioca ai tavoli, gioca d'azzardo, ci sono fanciulle come se piovesse. No? Esatto. E poi Boris in triplice forma, o sì, anche in 12 forme, 12 folli, sì, e alla fine faccio il giocatore d'azzardo, faccio l'Al Capone, faccio il barista, faccio il cassiere, faccio i tre coristi, faccio il bassista, faccio tutto io, sostanzialmente. Ancora una volta alla vendita, faccio tutto me. E poi, ecco, hai notato bene, giustamente, occhio maschile nota correttamente, è un inno alla donna, perché c'è una presenza elevatissima di belle signorine che contrastano con la beltà del sottoscritto. No, assolutamente bello da vedere, quindi non solo per le tracce musicali cantate è da prendere questo CD, ma anche per questo bonus video davvero davvero carino e simpatico, che permette anche in un certo senso di entrare in internet e poi andare a curiosare, sì, anche nel sito. Poi sì, abbiamo capire, lasciato un backstage, abbiamo messo un po' di informazioni, c'è un piccolo video che riguarda proprio le fasi di realizzazione del video. E poi per questa cosa abbiamo voluto fare anche una cosa originale, il sito è in tre lingue, quindi in italiano e in inglese, un po' classico, ma anche in russo, proprio in onore del mercato russo che delle tue tournée continue, sì, in Russia, che mi stanno accogliendo così bene, perché mi sembrava minimo fare una parte in russo curata da un amico russo, quindi corretta. Tra le altre cose, poi faremo fare una foto alla nostra Chiara, alla tua mascotte, che viene direttamente dalla Russia. Assolutamente sì, ci tengo molto, perché durante il mio ultimo tour, finito qualche settimana fa, un gruppo di fan di Mosca mi hanno regalato questo coniglietto portafortuna, che ha questo cappuccio che praticamente lascia libere solo le orecchie, e che ha anche la sua bella stella rossa, ovviamente l'indicazione del glorioso passato dell'Unione Sovietica. Ma i fan russi, cioè, com'è l'approccio al pubblico russo, praticamente? Il pubblico russo è meraviglioso, nel senso che è un pubblico estremamente caldo, estremamente caloroso, ma terribilmente critico. Ah. Io ho avuto la fortuna di saperlo prima di partire, perché ho un carissimo amico, quasi un fratello, che conosco da più di 15 anni, che è uno straordinario pianista, il pianista di Alessandro Ducoli, Andrei Kutov, che è russo, chiaramente. Che è un mio carissimo, lui è di Rostov-sul-Don, che è anche un mio carissimo amico. E ho imparato molto da lui prima di andare in Russia, ma il pubblico russo è un pubblico esigentissimo. Quindi io lo dico sempre, i primi 3 minuti, 5 minuti di un concerto hai l'atmosfera rilassante esattamente come se fossi davanti a una commissione d'esame. Cioè ti guardano in totale silenzio e stanno cercando di valutare se li stai prendendo in giro o se stai facendo sul serio. Quando, e fino ad ora è sempre stato così, con oltre quasi 50 concerti alle spalle, quando capiscono nei primi minuti che al di là dell'approccio così poco serioso, magari un po' ilare, il tuo modo di fare molto italiano e molto espressivo, sei comunque un musicista serio, poi ti danno il cuore. Ma i primi 3 minuti è meraviglioso, tagli la tensione con un coltello senza problemi. Passato questo, diventano un pubblico straordinario e, nota di merito, è un pubblico che compra i dischi. Che non è poco. Non è male. No, assolutamente. Comprano i dischi. Io temevo che avrei venduto una copia e il resto craccato. Ci sarà sicuramente qualcosa di craccato, ma di questi tempi, ammettiamolo, ci sta. Ma ho anche venduto molti dischi e continuo a venderne, il che mi fa ovviamente molto piacere. E quindi il prossimo disco anche con dei testi russi, bisogna dirlo. Ma ci avevamo già pensato. C'è ancora in cantiere, spero che riusciremo a farlo, la possibilità di fare un'edizione russa di questi due dischi. Russa intendo dire solo però nella grafica e nel packaging, non ancora nelle liriche. Quest'anno ho fatto un primo passo in tal senso, perché per il nuovo tour che ho appena terminato in Russia e in Crimea, ritornerò a settembre in Crimea, ho fatto un brano in russo, per sola voce, cantato in russo con l'aiuto di Andrei, che mi ha massacrato per 3 settimane per la pronuncia. I russi dicono, credo anche perché sono buoni, mi vogliono bene, che la pronuncia è anche buona. Quindi prossimamente ci sarà anche un Biocosmo Tovarish. Sarebbe carino. Ecco, bene. Perfetto, allora continuiamo con l'ascolto, anzi no, qualcosa dal vivo tocca. Poi adesso. No. Certo, allora alziamo gli altri microfoni, anzi ce n'è solo uno collegato con la tua mega strumentazione. La tua mega strumentazione, ricordiamo che Boris è venuto con un microfono, con una pedaliera e con un mixerino, e con questo aggeggio che si chiama looper sta registrando le sue voci per poi renderle musiche e farcele ascoltare. Boris, cosa succede adesso? Allora, eccomi qua. Ma io penso che, visto che il tempo sta passando, io vorrei farvi un brano tratto dal mio ultimo disco che abbiamo ascoltato, ma ne sentiamo anche uno dal vivo, un pezzo a cui sono molto legato perché è un pezzo estremamente divertente. È un pezzo dedicato all'alta società, si intitola Dandy Dog, il cane Dandy. L'abbiamo voluto dedicare ironicamente, Alessandro ed io, al cane di Paris Hilton. Avete presente quel cagnolino che è grosso più o meno 5 centimetri, non di più, e che lei si porta in giro nella borsa, che costa tanto come un'utilitaria, ma sembra una cosa sensatissima. E la cosa divertente, lo dico perché so che l'ascolto di queste trasmissioni è fatto da pubblico raffinato, è un gioco ritmico. Ho voluto scrivere un brano in 5/4, che è, come di solito dico ironicamente, è un 4/4, quindi il tempo normale del rock fatto da un ubriaco, quindi con un'aggiunta di un quarto in più. È un tempo dispari, ma la cosa divertente è che un po' nella vecchia tradizione anni 70 psichedelica, se voi lo ascoltate e state attenti alle sezioni di voce, andate in acido, nel senso che ogni sezione di voce lavora su un 5/4 ma accenta il 5/4 in maniera diversa, e quindi l'effetto è quello di un trip. Vi costa molto meno di un acido e non fa male come un acido, per cui io lo consiglio per lo sballo sano e salubre che è giusto fare di questi tempi per non andare a farsi male. Dandy Dog. Don't do dandy dog, dog, please don't do this dandy dog. Don't do dandy. Questa è la prima voce, dog, è in 5/4. Adesso la duplichiamo ed esce questo. Don't do dandy dog, dog, please don't do this dandy dog. Don't do dandy dog. La prima voce in contrasto fa così. No, dandy dog, tend to live the left. No, dandy dog, dandy dog. No, dandy dog, tend to live the left. No, dandy dog, dandy dog. No, dandy dog, tend to live the left. No, dandy dog, dandy dog. No, dandy terza voce in contrasto, sempre in 5. Time, lift the left, turn to lift, no, lift the left, lift the left. Time, lift the left, turn to lift, no, lift the left, lift the left. Time, lift the left. Quarta sezione di voce e l'acido è completo. Right, lift the right. Turn to the right, turn to the left, turn to right, lift the right, turn to the right, turn to the left, turn to right, lift the right. E su questo si può cantare una melodia, fa così. Tandy dogs and mamantini, it's not a really friend of mine. He comes and goes enough for time. So tandy dogs and mamantini, it's not a really friend of mine. He comes and goes enough for time. So dandy, dandy, dandy, not so really friendly. Dandy, dandy, dandy, not so really friendly. Dandy dog, say mama genie, it's not a really friend of mine. He comes and goes enough for time. So dandy dog, say Lamborghini, it's not a really friend of mine. He comes and goes enough for time. So ba ba ba ba, see it up, da ba da ba, go it up, do do, so it up, do do, do da do, do da do, do da do, do da do, so ba ba ba. Blu Radio Sera. Svolta. Pubblico e privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti, dal lunedì al venerdì, con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte, su Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio, Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ecco qua, dopo la breve pausa pubblicitaria, torniamo in diretta con Blu Radio Sera e con la presentazione di questo bellissimo disco, si intitola Bio Cosmopolitan, con noi Boris Savoldelli, con il quale stiamo parlando di queste sue produzioni e anche ascoltando la sua bella musica dal vivo. Chiamiamola musica perché è proprio quello che esce dalla voce di Boris, al quale diamo ancora una volta il benvenuto sulle nostre frequenze. È veramente un esperimento insolito, abbiamo sempre ospitato personaggi con chitarra, tastiere, batteria, questa volta The One Man Vocal Band, come si può dire giustamente. Vorrei un momento ritornare indietro un secondo per parlare del tuo gruppo Gli Ultimatum e parlare del progressive, famoso progressive, che noi abbiamo prima discorso a microfoni spenti. Voglio capire il perché nasce il progressive in quel momento, storicamente parlando, dal punto di vista tuo musicale. Sì, ma come dire, il mio legame col prog è un legame, secondo me, inevitabile. Perché, come dire, il prog nasce come, come ricerca di evoluzione in qualche misura del, della struttura rock classica, no? Peraltro non dimentichiamolo, cioè il prog, come dire, forse il più importante arriva dall'Inghilterra, dalla scena di Canterbury, che è stata una scena famosissima, ma anche l'Italia ha dato moltissimo e ancora oggi continua a andare. I tuoi conterranei, PFM. Assolutamente sì, la PFM, gli Osanna. Gli Osanna, certo. Di cui ho avuto il piacere di conoscere e di diventare amico di Lino Vairetti, leader storico, per cui ho suonato lo scorso anno nel suo festival, sì, ad Afragola. Ma è una musica che necessariamente diventa interessante, perché è proprio molto esplorativa. Io devo ammettere che quando mi sono mosso, quando ho cercato di trovare qualcosa al di fuori dei confini del rock più tradizionale, pur amandolo ancora molto, insomma, scendendo oggi mi sono rimesso un vecchio disco degli AC/DC, tanto per dire quanto poi l'animo abbia ancora queste passioni per il rock di matrice tradizionale anni 70. Però il rock nasce proprio con questo desiderio di uscire un po' dai confini, no? Uscire dal punto di vista ritmico. I primi esperimenti nella musica, come dire, popular, perché comunque il prog è del rock, quindi di facile ascolto da un certo punto di vista, e che ha cercato anche di arrivare il più possibile alle folle. Questo tentativo di lavorare molto coi tempi dispari, insomma i tempi dispari dei Genesis sono stati una cosa straordinaria, ma anche proprio dal punto di vista sia degli arrangiamenti che timbrici, il lavoro nel prog è stato estremamente interessante. Cioè, il prog inseriva strumenti desueti per il mondo del rock, il violino, quando erano addirittura le arpe celtiche, piuttosto che strumenti a fiato, il sax, ma anche le trombe, anche e anche il flauto, ricordiamo il Jethro Tull di Ian Anderson, sì, voglio dire. Quindi necessariamente credo che sia imprescindibile per una persona che ama la musica, come mi ritengo di essere, che cerca dalla musica le espressioni più amplie, andare poi a muoversi e ricercare qualcosa del repertorio del prog. E questo a me fa anche piacere, perché poi negli anni, senza che io lo cercassi in maniera particolare, se non facendo sentire la mia musica, in qualche misura, oltre che dalla comunità del jazz, soprattutto in Italia, sono stato molto coccolato e anche un po', come dire, adottato dalla comunità del prog. Mi sono trovato in tantissime fanzine, mi sono trovato in kermesse, in festival in cui il prog, insomma, la fa da padrone, che mi hanno in qualche misura adottato, e questo sicuramente mi ha fatto molto piacere. Del anche resto, perché anche gli area erano considerati, sì, un po' di quell'area, sì, assolutamente, no? Un po' progressivo, anche perché voglio dire, il prog naturalmente parte dal pop, ha qualche reminiscenza classica, ma va verso anche il jazz. Certo, assolutamente sì. Beh, l'abbiamo detto prima, ho avuto a San Paolo il mese scorso la possibilità di suonare sullo stesso palco di Soft Machine Legacy. Soft Machine furono una delle band storiche della scena di Canterbury, e molte volte, come dire, hanno sfiorato, se non addirittura ci sono entrati a piene mani, certo, col mondo del jazz. Certo, ma lo stesso Miles Davis, voglio dire, che io amo visceralmente nei dischi che secondo me sono i più belli, anche quelli molto controversi per certa critica tradizionalista jazz, cioè Bee Gees Brew, per esempio, che è la punta secondo me più alta della sua sperimentazione. Forse non possiamo parlare di prog, ma sicuramente che lui si sia spostato pesantemente sul rock, questo credo che possiamo dire. Sì, è capitato, è capitato. Lo è stato, tanto che la critica di quegli anni lo aveva massacrato per questo suo spostamento verso il rock, insomma. Quindi. Una domanda che non ti abbiamo ancora fatto, Boris. I tuoi prossimi concerti, in zona o in Italia? Allora, i prossimi concerti in Italia, posto che poi tutto in bell'ordine lo si trova sul mio sito, perché la mia memoria a volte è un po' fallace, il sito è www.borisinger.eu. Sono però alcuni degli immediati appuntamenti che ricordo, sono sicuramente di qui a pochi giorni, ovvero il 17 e il 18 di giugno. Invito tutti a una bellissima manifestazione, che è l'omaggio a Demetrio Stratos, che si fa in provincia di Ferrara, ad Alberone di Cento, un festival che vede la partecipazione di Paolo Tofani, ex area, e di molti dei vecchi amici di Demetrio Stratos, ma che cerca di dare spazio ad alcune band emergenti di musica veramente diversa, quindi non le musiche e non i gruppi, come dire, di pop tradizionale. E soprattutto poi all'interno di questa kermesse ci saranno alcuni giorni dedicati proprio alla voce e allo studio dell'avanguardia, con dei seminari che mi vedranno protagonista nel ruolo di docente assieme a Tran Quan Hai, storico insegnante di canto che insegnò anche le tecniche extraeuropee allo stesso Demetrio Stratos. Tante cose su un video che ho visto su YouTube, sì, tu stai facendo proprio quel classico coro a cappella, sì, ecco, assieme a Tran. Sì, sì. assieme a Trank One Eye e Albert Tera, che è un altro bravissimo cantante e insegnante di canto italiano. Una delle cose belle di questo festival, e sono sicuro che accadrà anche la prossima settimana, è proprio la spontaneità, per cui quella sera, come capita tutti gli anni, siamo stati letteralmente sbattuti sul palcoscenico, quindi senza nulla di previsto o deciso, stavamo semplicemente bevendoci una birra insieme, siamo saliti sul palco e abbiamo improvvisato nella migliore tradizione dell'improvvisazione, divertendoci come dei matti. Soprattutto per me è stato un grande piacere, un grande onore condividere il palco, in particolar modo con Trank, che è veramente un monumento alla voce, e quindi ne è uscito anche, l'hanno registrato, sì, e ne è uscito anche una cosa assolutamente gradevole. Assolutamente sì, posso confermarlo, anzi, se la gente vuole andare a vedere questo spezzone su internet, come lo può lo trova? Semplicemente digitando il mio nome, Boris Savoldelli, omaggio Demetrio Stratos, e esce un 3-4 video, tra cui anche questo con Tran. Oppure basta che si ricordi Tran, perché il nome per esteso è difficile, Tran Quan Hai, però basta mettere Boris Savoldelli Tran e esce questo video del sottoscritto con Tran. Benissimo, andiamo a gustarci un'altra traccia dal disco che stiamo presentando, che è sempre Bio Cosmopolitan. La traccia numero 15 è una bonus track, come si dice, ed è questa Cross Town Traffic. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. And I'm trying to get on the other side of death. Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato anche questa Crosstown Traffic. Tra altre cose, compariva già nell'album del 2007 da Insanology. L'abbiamo voluta inserire per chi arriva tardi, vero Boris? Per sì. Chi arriva tardi a conoscere Boris Savoldelli, la sua musica, e quindi si fa sentire anche qualcosa che si è fatto prima. A proposito di Acido che si ascoltava prima, sì, questa sì. Mi sembrava piuttosto cattiva. Molto, ma sai, questa è l'unica, ma non è un'imposizione, però poiché è uno dei motivi per cui io sono molto orgoglioso e contento di lavorare per Moonzoon Records, questa piccola etichetta newyorkese, proprio perché ho totale libertà, nel senso che lo raccontavo prima a microfoni spenti, io ho mandato il master finito del mio disco per la stampa senza che l'etichetta imponesse nulla di quello che avevo registrato. Però il boss dell'etichetta, che si chiama Leonardo Pavkovic, che è tutto un carissimo amico, un grande estimatore e conoscitore di musica, era innamoratissimo di Crosstown Traffic, e prima che io terminassi il disco mi chiese di per favore rimettiamo Crosstown Traffic, e io gli dissi di sì, però se qualche tra di voi c'è qualche cultore della mia musica sentirà che la nuova versione di Crosstown Traffic è diversa da quella che è presente in Insanology, nel senso che ho riaperto completamente il mix, cioè vuol dire ho riaperto tutte le tracce, le ho remixate tutte e ho rifatto una serie di tracce nuove facendo una sperimentazione col mio fonico, che voglio salutare e ringraziare ancora, si chiama Piero Villa ed è un mio amico storico dai tempi del liceo con cui io collaboro ormai da anni musicalmente, ed è un pazzo scatenato, e abbiamo fatto un'operazione molto vintage, cioè per chi si intende un po' di musica, abbiamo sostanzialmente preso la mia voce, l'abbiamo buttata in un amplificatore valvolare, esattamente come fosse quello di una chitarra, abbiamo messo le valvole in saturazione così come faceva Jimi Hendrix, per cui la mia voce è uscita molto distorta, la distorsione che sentite non è nessun plugin del computer, è proprio la valvola distorta, abbiamo ributtato il segnale fuori attraverso un giro di cavi furibondo, l'abbiamo passato tutto in un wah, un vecchio pedale wah degli anni 70 che io ho e conservo, che avevo comprato ancora anni fa, e abbiamo filtrato la voce come fosse il suono di una chitarra sostanzialmente, e l'effetto è quello abbastanza disorientante che si sente all'inizio. Hendrixiano praticamente. Molto Hendrixiano. Era un onore, un grande onore chiaramente. Sì. Tra il 2007 e il 2011 c'è ancora qualcosa che viene definito una specie di dark side di Boris Savoldelli. Sì. Abbiamo un protoplasmic. Sì, la cosa meno radiofonica che io ho fatto fino ad oggi, di cui sono molto orgoglioso. Sì, io sono solito dire che la mia musica rappresenta il mio approccio alla musica, che è un approccio molto a 360 gradi, cioè io riesco al mattino a ascoltare John Cage e quindi impazzire con l'avanguardia, e poi il pomeriggio mettere Elton John, ascoltami Elton. Io amo veramente la musica visceralmente. C'è una parte di me che ogni tanto grida vendetta, che è quella che vuole fare le cose più pazze, più come dire, più avanguardiste. E quindi nel 2009 mi sono tolto questo sfizio a New York, ho registrato questo disco pochi giorni prima di fare la mia famosa esibizione allo Stone grazie a John Zorn, con Elliot Sharp, che è un grandissimo dell'avanguardia mondiale, che sta a New York, è anche lui uno dei miei grandi idoli, che, col quale sono entrato in un rapporto di amicizia. Abbiamo deciso di fare questo disco insieme, oltre che il concerto insieme. Il disco è stato prodotto ancora una volta da Moonjoon, uscito nel 2009, e è veramente radiofonicamente inascoltabile, ma nel senso buono, cioè è veramente molto molto molto duro, molto pesante. Però se c'è tra voi qualche appassionato di avanguardia tosta, lo consiglio, perché lo ritengo veramente un bel capitolo della mia musica, che sicuramente non mi sconosco, anzi di cui sono molto orgoglioso. Riesci a farci capire in qualche 30 secondi? Non aspettavo altro. Ho qua giusto la macchinetta, ma molto volentieri. Sì, faccio dai, un'improvvisazione molto l'ora è buona, secondo me. Sì, lo possiamo fare. L'ora è giusta. Sì, anche perché protoplasmi, che cos'è? È un complesso semifluido, quindi una sostanza translucente che costituisce la materia vivente, quindi piante e anche cellule animali. Vedo che sei preparato e questo mi fa piacere. Ecco, sì, era veramente è stato il prodotto di un delirio di 8 ore. Abbiamo lavorato in studio consecutivamente per 8 ore, Elliot ed io, e ne abbiamo tratto questo disco. E proprio l'idea di creare ancora una volta questa idea di organismo proprio come dire, primigenio, era molto interessante, e questo è stato messo poi su disco. Sentiamolo allora. Sentiamolo. Dai, un sorso d'acqua. Tanto un sorso, anzi, l'acqua diventa funzionale all'esibizione. Sì, tipo non stile gargarismo, ma magari... quasi. Ok, eccolo. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo era un fuori programma, eh? Fantastico, davvero. Quindi abbiamo capito anche un po' quella che era l'anima più sperimentale e selvaggia della musica di Boris Savoldelli, un pezzo tratto da Protoplasmic che Boris ha voluto regalarci in studio. Prima pensavo scherzasse parlando all'inizio di gargarismo, no, in realtà è partito proprio con quello. Fantastico, comunque, come dare musicalità anche a quelli che normalmente sono suoni poco graditi, diciamo. Beh sì, questo è uno delle, credo che sia uno dei punti fondamentali di molta dell'avanguardia, insomma, quella di cercare di rendere suono tutto quel confine rumoristico che in realtà è suono, perché poi in realtà io credo che i limiti della musica sono limiti che ci diamo noi. Chiaro che ci sono dei contesti. Io a volte mi viene chiesto come io possa convivere con queste due anime così diverse tra di loro, insomma, la gioia e la melodia di dischi come Biocosmopolitan e Insanology e la follia assoluta invece di lavori come Protoplasmic. Io ribadisco, non potrei mai pensarmi come musicista senza una di queste due cose. È chiaro che quando sono in un contesto comunque più formale mi rendo conto che questa musica è difficilissima da poter digerire, però ci sono dei momenti in cui è veramente interessante ed è bello farlo, e mi capita spesso anche nei concerti, magari per pochi minuti, ma anche un pubblico che può apparire disorientato, questi pochi minuti comunque li apprezza perché capisce che c'è qualcosa sotto. Ma possiamo definirla, se sei d'accordo, una melodia alterata? Sì, certamente sì. Beh, del resto tutta la come dire, o meglio buona parte dell'avanguardia seria, intendo dire, non, perché poi se anche su questa cosa potremmo discutere ore e ore, c'è anche l'avanguardia meno seria, ma l'avanguardia seria si basa su dei presupposti che sono assolutamente fondamentali. Sai, la regola base è, e io di questo da un certo punto di vista mi vanto, perché credo di avere studiato abbastanza musica per poter anche affrontare questa forma, le regole si infrangono quando le si conoscono, se no è rumore, se no è sì, confusione, basta, insomma. Io non la a caso art of noise, no? Sì, lo dico anche sì, ai miei allievi. Sono arrivato oggi, ho venerato all'età di 40 anni, ho cominciato a fare avanguardia un po' spinta da 4-5 anni a questa parte, cioè da quando ritengo di avere una formazione tecnica e musicale tale da permettermi anche di potermi muovere su questo. Se lo facevo a 15 anni era casino, appunto. Poi certo, può essere anche divertente, possiamo certo fare mille discussioni, però diventava, ecco, un po' punk. Sì, esatto, un po' esatto. Sex Pistols, esatto, che avevano senso in quegli anni, che avevano senso in quegli anni, forse giusto, oggi un giusto po' di meno, insomma. Dico, io esatto, amo molto anche queste forme del punk, le ho come rivalutate negli anni, però in effetti avevano senso anche perché erano contestualizzate in una temperie di un certo tipo, insomma. Fatto oggi magari mi suona un po' meno vero. Un flash, ti dico che recentemente un mio collega, mio amico, ha visto il concerto del leader di Sex Pistols recentemente. Un'energia fortissima. Lui era ben messo musicalmente, cioè anche dal punto di vista della stanza era un po' assunta, però era ancora tanta grinta aveva, nonostante tutto, tanti gli anni sono passati. Chiaro. Beh, insomma, loro voglio dire, io ho avuto questa rinascita, per esempio, rispetto ad un gruppo che non avevo per nulla amato quando ero giovane, che erano i Ramones. Mm. Perché io, arrivando con una formazione molto legata alla tecnica, alla perfezione, all'arrangiamento, ovviamente mi sconoscevo un gruppo che saliva sul palco, faceva un pezzo di 2 minuti, non sapeva quasi suonare e finiva lì. Però poi mi sono reso conto che era stupidità adolescenziale questa, perché crescendo poi mi sono avvicinato, anche domandandomi perché molti dei miei idoli dell'avanguardia new york adorassero tutti i Ramones. In realtà mi rendo conto che, certo, se tu li ricerchi dal punto di vista tecnico non ne vieni fuori con grande piacere, ma se capisci il contesto, il segnale, come dire, quello che loro andavano raccontando e l'ambito che andavano raccontando, non poteva che essere raccontato in quel modo. E l'hanno fatto incredibilmente bene, insomma. Anche perché ricordo che i Ramones, il batterista, è stata fatta la conta nel gruppo, no? Perché doveva assolutamente sì, ma era un vanto per loro, infatti, non saper suonare, di non saper andare oltre i 3-4 accordi che conoscevano con i singoli strumenti. Però avevano una forza, un'energia e anche un livello di scrittura che poi io ho imparato a rivalutare negli anni. Sì, sono stati citati da tutti, Ramones. Meglio tardi che mai, insomma, mi viene da dire. Però, insomma, mi sono reso conto che in realtà quello che io, così, in maniera un po' spocchiosa, passavo come robaccia per bambini idioti, in realtà è musica di alta qualità. Bene, allora ascoltiamo musica di altrettanta alta qualità, High Quality, quindi all'interno di questo nuovo CD di Boris Savoldelli, Biocosmopolitan, e con la traccia numero 4 che Maurizio Calzavara voleva ascoltare sin dall'inizio della trasmissione. Ebbene, Maurizio, sì, via. Sei accontentato in queste ultime fasi di trasmissione? Ascoltiamo proprio The Discordia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. La disarmonia, this is the discordia, this is l'apatia del disarmonia, irreversibile disarmonia. La disarmonia, this is the discordia, this is l'apatia del disarmonia, irreversibile disarmonia. Once again. irreversibile disarmonia. La disarmonia, this is a discord, this is a partia de disarmonia. Irreversibile disarmonia. La disarmonia, this is a discord, this is a partia de disarmonia. Irreversibile disarmonia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed ora, ma non solo ora, ho capito perché Maurizio voleva ascoltarlo sin dal principio questo pezzo, veramente fantastico. The Disarmonia, The Discordia, questo è il titolo del pezzo. Boris Savoldelli è ancora con noi per Bio Cosmopolitan, la sua ultima produzione, ma non dimentichiamo anche quell'album, diciamo, vissuto del 2007 in Sanology, che abbiamo imparato ad apprezzare proprio dal vivo, anche con le spiegazioni tecniche di quello che avveniva proprio mentre il pezzo si stava costruendo. Sì, un pezzo molto, ripeto, questo molto bello. Vi dico un aneddoto: io ero sicuro ci fossero quattro ragazze che cantavano in coro, invece non c'erano quattro ragazze, erano le voci ripetute di Boris, e purtroppo al primo approccio, senza avere niente davanti. E questa è la sensazione, c'è poco da fare. Ma è quello che vuol fare sentire Boris, no? La cosa divertente, lo dicevo proprio a microfoni spenti, è che a volte mi è capitato delle persone che appunto solo dopo averli visto da vivo realizzavano che tutto quello che c'è nei dischi lo faccio io, perché pensavano addirittura che ci fosse una band, cioè qualcuno non ha la raffinatezza di dire ma questo è un suono di una chitarra vero oppure un suono simulato fatto da una voce, e questo ovviamente è l'effetto che voglio ottenere, insomma. Quindi mi inorgoglisce il fatto che la gente si confonda un po' le idee su queste cose. Bene, rapidamente Maurizio, per domani sera cosa... Sono gli Oracles, un gruppo di Pordenone, un gruppo che fa rock non duro ma potente, possiamo dire questo. Quindi anche domani sera all'interno della programmazione serale di Rock Wave ci saranno appunto gli Oracles assieme a Maurizio Calzavara, in regia ricordiamo Michele Toson, per goderci ancora della buona musica rock, diciamo, di casa nostra. Bene, allora ringraziamo Boris Savoldelli per essere stato qui con noi in questa serata, per averci fatto amare le sue musiche, e ancora complimenti per questi lavori che stai portando alla grande in giro per il mondo, e anzi ci fa grande onore che sei capitato anche dalle nostre parti nel nostro piccolo studio, che però grazie a te è diventato grande. Bene. Grazie a voi, è stato un piacere mio. Ogni volta che c'è la possibilità di fare musica dal vivo io lo faccio molto volentieri, quindi grazie per aver promosso e per promuovere la mia musica, e bene. A presto. Bene, allora grazie ancora Boris, ti lasciamo solo, io e Maurizio chiudiamo i nostri microfoni e lasciamo il tuo ultimo pezzo live dedicato a tutti i nostri ascoltatori di Blu Radio Veneto. Sì, il pezzo è l'ultimo, è un pezzo anche abbastanza breve, ha un titolo divertente perché una notte ho pensato, se vi ricordate un film storico, Shining, di Stanley Kubrick, se vi ricordate alla fine rimangono vivi solo la mamma e il bambino si chiamava Danny, e io quella notte non riuscivo a dormire e mi sono detto ma che cavolo di fine avrà fatto Danny? E ho pensato che Danny è diventato grande, e quindi ho scritto questa canzone che si intitola Danny is a Man Now. Bene, allora da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande caloroso ciao, vi lasciamo con Boris Savoldelli, grazie ancora Boris. Grazie mille a voi. Danny is a man now. Dum po po po po die die die dum po po po po die die die dum po po po po die die die dum po po po die die die dum po po po die die die dum po po po die die die dum po po po die die die dum po po po die die die dum po po po Five for right, it's a new era. Five for right in this new era. Five for right, it's a new era. Five for right in this new era. fight for my right. It's a new era. Fight for my right in this new era. Then is a big man now, watching the good jollies on TV. Then is a really big ass on CD, you can believe. Having a really big car, searching for a new ball, new cone, new rope, bigger baton behind the door. Then is a very big man and tricycle man. Really lovely, fantastic, bone is only friend. This on and on, and it's not you. Fight for my right, it's a new era. Fight for my right in this new era. Yeah, buonanotte. Blu Radio, Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Rockwave.